24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Roberta Pellegatta e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi in primo piano le reazioni all'annuncio della Danimarca di sospendere il trattato di Schengen, poi i dati Eurostat che dicono l'Italia cresce meno dell'Europa, ma parleremo anche del via libera dato dalla Consob all'OPA di Lactalis su Parmalat e del Giro d'Italia sul quale incombe l'eruzione dell'Etna. Il presidente della Commissione europea Barroso ha chiesto alla Danimarca di evitare ogni passo unilaterale in materia di ripristino dei controlli alle frontiere, lo ha riferito la portavoce di Barroso, Pia Hansen. Bruxelles è pronta ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione perché la Danimarca rispetti la legislazione europea, gli ha fatto eco il commissario UE Cecilia Malmström. Il possibile ripristino dei controlli alle frontiere da parte di Copenaghen è una ferita per l'Europa, secondo il ministro degli esteri italiano Franco Frattini. Picconata contro l'edificio comunitario oppure democrazia al lavoro? La decisione presa dalla Danimarca di rinforzare i controlli doganali con i suoi vicini d'Europa ha suscitato una protesta della politica attraverso l'intero spazio comune, che non si spiegherebbe se in gioco ci fossero davvero solo i controlli sui camion. La questione riguarda piuttosto una certa visione dell'Europa che oggi si afferma anche nella ricca Danimarca. L'ispiratrice dell'iniziativa è la leader del Partito Popolare Danese, Pia Kirsgaard, conservatrice, euroscettica, protagonista di un accordo opt-out che conserva la corona, intesa come valuta, al Regno di Danimarca e di una decennale battaglia contro il multiculturalismo che ha assunto una dimensione internazionale quando 5 anni fa è esplosa la crisi delle caricature di Maometto. La timida reazione dei socialdemocratici e la fermezza della Kirchner di fronte alle aggressioni verbali e non solo che l'estremismo islamico ha lanciato contro il paese ha rafforzato l'autorevolezza del DPP, che è forte anche di una politica tesa a escludere gli immigrati dal pranzo di Babette della politica sociale danese. L'anno successivo ha conquistato il 14% dei voti, diventando chiave di volta dell'alleanza di governo con i liberali di Lars Rasmussen. Insomma, poiché anche in Europa tutto il mondo è paese, ora che si avvicinano le elezioni d'autunno, la Kirchgaard impone il suo segno, magari per rassicurare gli elettori che guardano in TV gli sbarchi sulla costa sud dell'Europa e si chiedono quale sarà il capolinea del loro viaggio della speranza. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. La Germania cresce nel primo trimestre dell'anno dell'1,5%, la Francia dell'1%, la Spagna dello 0,3%. In Italia il PIL, secondo i dati preliminari dell'Istat, sempre nel primo trimestre, è cresciuto dello 0,1%. Rispetto all'ultimo trimestre 2010. Sono i dati che fotografano la situazione in Europa nel giorno in cui la Commissione europea ha presentato le previsioni economiche di primavera. There are important risks and vulnerabilities in the current economic outlook. Nel 2012 il PIL dell'Eurozona tornerà ai livelli pre-crisi, ha detto il commissario europeo Olli Rehn. Queste che sentite sono le sue parole, ma sono arrivati dei distinguo appunto tra i diversi paesi. La ripresa in Europa è solida e continua, nonostante le turbulenze e le tensioni sul mercato dei debiti sovrani, ma resta fragile, ha detto, lo state ascoltando. Secondo Rehn è essenziale continuare a rafforzare la riduzione dei deficit pubblici e ad attuare le necessarie riforme strutturali. Per quanto riguarda l'Italia, la ripresa continua ad essere lenta ed è trainata soprattutto dalle esportazioni. E sentiamo da Bruxelles Antonio Poglio Salimbeni. Per l'Italia la previsione per il 2011 è confermata quella che la stessa Commissione all'inizio di febbraio aveva pubblicato, crescerà quest'anno dell'1%, l'anno prossimo dell'1,3%. Il divario con l'Eurozona è di mezzo punto percentuale quest'anno e lo stesso l'anno prossimo, insomma c'è un divario di crescita. Naturalmente la Germania fa più dell'Italia, cresce più velocemente, è cresciuta più velocemente nel primo trimestre e crescerà più velocemente anche nel corso dell'anno, chiuderebbe l'anno al 2,6%, ben 1,6% in più di quanto cresca il nostro paese. Va detto che secondo le previsioni l'Italia potrebbe, non centrerebbe, stando a questa stima, non centrerebbe l'obiettivo nel 2012 di portare il deficit in rapporto al prodotto lordo sotto il 3%, restandone al di sopra, 3,2%. La motivazione è che la Commissione europea ha dei dubbi sull'efficacia delle misure anti evasione fiscale. Va detto per la verità che la Commissione europea non tiene mai conto conto di quelle, degli effetti di quelle misure che sono avvolte nella totale incertezza come questa. In ogni caso il commissario agli affari economici Olli Rehn non si è dimostrato particolarmente preoccupato per questa situazione, ha invitato comunque l'Italia a cominciare a ridurre celermente il debito pubblico, che resta al secondo posto, è il secondo debito più alto in Europa e nell'Eurozona, subito dopo quello greco, visto che questa riduzione è imposta dal nuovo quadro di governance economica. Adesso andiamo nel sud della Spagna, colpito dal sisma. Il terremoto ha sido duro, fuerte, ha tenido impacto, pero es más fuerte este país. Il terremoto è stato forte e duro, ma questo paese è più forte. Le parole che sentite sono quelle del premier Zapatero ieri a Iorca per i funerali delle vittime del terremoto di mercoledì scorso. Zapatero ha annunciato il rapido avvio della ricostruzione. Il terremoto di Iorca ha fatto 9 morti e oltre 200 feriti. Metà delle case della città è ancora inagibile e il 10% circa dovrà essere distrutto perché danneggiato nella struttura. Oltre 1.200 migranti approdati nelle ultime ore a Lampedusa su 6 barconi e il ministro degli interni italiano Maroni dice l'Europa non sta facendo quello che si è impegnata a fare. Un'emergenza che ormai è ordinaria amministrazione. Sul molo del porto di Lampedusa tutto funziona secondo schemi collaudati. Così, quando oltre 1.000 profughi in arrivo in meno di 24 ore sbarcano, scortati da guardia costiera e guardia di finanza, vengono accolti dagli uomini del centro di accoglienza. Siamo sempre pronti, dice il presidente Cono Galipò. Noi come sbarcano diamo intanto la prima accoglienza con del latte, con dell'acqua, delle brioche. Non appena arrivano al centro diamo tutto il kit, pantaloni, camicia, magliette, la scheda telefonica, le sigarette, cioè abbiamo tutto. 166 approdati all'alba, poi altri barconi, a bordo 265, 191, 142 persone, in 500 sono rimaste alla deriva per ore con il timone in avaria. Il comune ha messo a disposizione strutture per accoglierli, dice il sindaco Bernardino De Rubeis. Non comodamente, garantendo un tetto sicuro e allontanandoli dall'agghiaccio, perché non ci saranno né letti, né lettini, né materassi. Questi sono i tre somali e gente abituata a soffrire, a patire le pene dell'inferno. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina, via libera della Consob all'OPA della francese Lactalis sulla Parmalat. Il periodo di adesione inizierà il 23 maggio e terminerà l'8 luglio, salvo proroghe. Un profilo di Emmanuel Besnier, Mr. Lactalis. Emmanuel Besnier aveva 29 anni quando nel 2000 prese le redini del gruppo Lactalis dopo la morte improvvisa del padre, dal quale, oltre a quello che già allora era un gigante del latte, ha ereditato molte altre cose: il culto del lavoro, la scelta strategica dell'internazionalizzazione, il radicamento territoriale, la discrezione e la concretezza come regole di vita. L'importante è quello che si fa, non quello che si è. In 11 anni, decine di acquisizioni in giro per il mondo, ma nessuna intervista e una sola foto, scattata a sorpresa durante un incontro a Zagabria. I bilanci top secret. Occupa la 15ª posizione della classifica dei più ricchi di Francia. Eppure il giovedì pomeriggio sale come un passeggero qualsiasi sul TGV che da Parigi lo riporta a Laval, cittadina di 50.000 abitanti, del grande ovest agricolo, dove i beignets continuano ad abitare. Un mondo in cui la sua riservatezza è un valore, apprezzato e protetto. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Chiusura di settimana debole ieri per Piazza Affari, in linea con le borse europee che guardano con timore i rischi del sistema finanziario di diversi paesi euro. I listini del vecchio continente hanno così chiuso la giornata in lieve calo. Francoforte è sceso dello 0,60%, Parigi dello 0,20%, Londra ha registrato un meno 0,32%. Negativa anche Piazza Affari. Seduta da protagonista in borsa per Campari, in una giornata in cui l'entusiasmo sul mercato azionario è stato parzialmente spento dai nuovi timori sulla situazione delle economie di Grecia e Portogallo. In un contesto debole, dunque, Campari ha sfruttato i conti trimestrali superiori alle attese per guadagnare in borsa il 2,7% e risultare la migliore del FTSE MIB. Nei primi tre mesi dell'anno il fatturato è cresciuto del 15% a 268 milioni e gli utili di quasi il 16%. Effetto trimestrale anche per Unicredit e Enel, capaci di salire rispettivamente dell'1,8% e dell'1,5%, mentre Fondiaria Sai ha lasciato sul terreno quasi il 4%. 4%. A innescare le vendite, le indicazioni della Consob, che non giudica necessario il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto da parte di Unicredit e Premafin nell'ambito del riassetto del gruppo assicurativo. Da Radio Cor, Andrea Fontana per Radio 24, Il Sole 24 Ore. I leader delle nazioni artiche riuniti in Groenlandia per discutere in merito a nuove strategie per contrastare il riscaldamento globale e per meglio gestire la situazione che riguarda il petrolio. Un incontro importante, quello del Consiglio dell'Artico, di cui fa parte la Danimarca, paese che gestisce gli affari esteri per conto della Groenlandia. La nuova frontiera della geopolitica è all'estremo nord del mondo. Il Consiglio Artico, il consesso degli 8 paesi affacciati sul polo nord, Stati Uniti, Canada, Russia, Finlandia, più i 4 paesi scandinavi, si è riunito ieri in Groenlandia sotto i riflettori della diplomazia. Per la prima volta partecipava un segretario di Stato americano, Hillary Clinton. Il Consiglio ha firmato un trattato per le operazioni di soccorso nell'Artico, ma soprattutto ha concordato sulle misure di sicurezza in caso di un disastro petrolifero, come quello dell'anno scorso nel Golfo del Messico. Ecco perché l'Artico è diventato improvvisamente strategico. Con il progressivo scioglimento dei ghiacci sta diventando teatro di nuove rotte commerciali e turistiche, ma soprattutto di esplorazioni petrolifere un tempo impossibili. Si stima che sotto all'estremo nord del mondo ci siano 90 miliardi di barili di petrolio. Marco Magrini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, con il Giro d'Italia, Bart De Clercq ha vinto la 7ª tappa da Maddaloni a Montevergine di Mercogliano di 110 chilometri. Il belga ha preceduto sul traguardo Michele Scarponi, l'olandese Wenning ha conservato la maglia rosa, ma sul Giro d'Italia incombe il vulcano siciliano Etna. L'Etna manda cartoline in tutta Europa. Il vulcano infatti ha ripreso a brontolare e dai suoi crateri piove di tutto, lava, lapilli e cenere. E la cenere diventa un lungo e largo tappeto grigio che tutto ricopre, strade, case, giardini, aeroporto. Una pioggia spettacolare che però crea problemi. Prima di tutto i voli che partono dallo scalo di Fontanarossa. Ma il vulcano spaventa anche il Giro d'Italia, che proprio questa domenica, partendo da Messina, arriverà sull'Etna a quota 1992 metri. In mezzo a due crateri è previsto l'arrivo della tappa, una tappa che doveva essere suggestiva, ma che per ora è solo un gigantesco cantiere. 100 uomini sono al lavoro per rimuovere oltre 250 tonnellate di cenere, alta un centimetro, sparsa lungo gli ultimi 7 chilometri di salita fino al traguardo. Gli organizzatori del Giro assicurano la corsa si farà, ma qualcuno teme che alla fine vada tutto in cenere. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Grazie per l'ascolto, una buona giornata da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.